dirigono l'orchestra le zuppe al pomodoro Mutti. Zuppe pronte fresche che a vederle vien la voglia, ricche appetitose mica solo una brodaglia, anche i buon gustai saranno più che soddisfatti, mai più senza le nuove zuppe Mutti. Mutti ti dedica tutta l'armonia delle sue nuove zuppe, fresche, corpose e genuine, da oggi conquistano anche il Festival di Sanremo. Zuppe Mutti, il gusto che si fa sentire. Runtime Radio presenta Michela De Paola in Paucracy, animali rivoluzionari. Ciao, io sono Michela De Paola e questa è Paucracy, animali rivoluzionari. Prima di iniziare con questo episodio, vi ricordo che Paucracy fa parte di un progetto più ampio, chiamato Runtime Radio, la radio geek. Se volete scoprire quello che facciamo, basta andare su www.runtimeradio.it o su spreaker.com/user/runtime. Se volete contribuire al grande sforzo produttivo e creativo del nostro network, basta andare su runtimeradio.it/anch'io. Per quanto riguarda questo programma, ci trovate su spreaker.com/show/Paucracy e su tutti gli aggregatori podcast principali, da iTunes a Spotify. Per ora, per contattarci, potete scriverci a paucracypodcast@gmail.com. Ma veniamo all'episodio. In questa puntata iniziamo il nostro viaggio nel mondo del volontariato cinofilo fatto bene. Sono molto felice e, come sentirete, anche l'emozione è tanta in questa intervista, perché abbiamo avuto l'opportunità di raccontare la realtà del rifugio Code Felici, un rifugio alle porte di Roma dove collaboro da diverso tempo come volontaria, a cui devo molto delle esperienze fino ad ora compiute e molti degli approfondimenti che spero che riusciremo a portare nella nostra strada insieme a Paucracy. Ringrazio già da ora le persone intervistate e tutte quelle che per questioni tecniche non abbiamo potuto sentire in voce, ma che vorrei ricordare lavorano in modo incredibile giorno e notte, al freddo più pungente e al caldo più intenso, per assicurare agli ospiti del rifugio la migliore permanenza possibile. E questa puntata è dedicata a tutti loro e alla loro pazienza, a Damiana, a Giulia, a Pasquale, a Gianluca e ai cafoncelli del mio cuore. Ed ora andiamo all'intervista. Bentornati amici di Paucracy. Come vi avevo già anticipato, oggi parliamo del rifugio Code Felici, dell'associazione del rifugio Code Felici, e con noi abbiamo Valentina Biondi, vicepresidente dell'associazione. Buonasera Valentina. Buonasera a tutti. Barbara Gambareri, membro del direttivo di Code Felici. Buonasera a tutti. E Federica Maggi, che all'interno del rifugio è istruttrice cinofila. Buonasera. Ciao. Federica. Ciao a tutti. Allora, partiamo subito con la nostra chiacchierata. Conosco il rifugio per nostra fortuna, insomma per mia fortuna, sono molto felice di questo e sono molto felice di avervi qui, quindi vi ringrazio per essere qui a Paucracy. Allora, cominciamo a parlare del rifugio, quindi vediamo un po' di raccontare bene di che cosa si tratta, di che cosa si occupa e un po' di fare, diciamo così, l'excursus della storia di questo bellissimo posto. Mm-hmm. Parte chi parte? Vabbè, parto io. Sì. In questo momento poi mi sento particolarmente, insomma, un periodo storico anche un po' particolare, però ecco, il rifugio è un posto semplicemente magnifico, quindi che ha molteplici funzioni e nasce ormai 30 anni fa, ad oggi sono quasi 30 anni che esiste questa realtà, e nasce come un piccolo accampamento che riuniva un po' di anime e poi mano a mano si è popolato di altre anime molto molto coraggiose e poi via via ha continuato a crescere. E sicuramente è un'associazione che ha uno scopo ben preciso ed è quello di aiutare sicuramente tantissimi cani. Negli anni ne abbiamo aiutati tantissimi, con molta molta fatica sicuramente, in passato tantissima, e insomma anche ad oggi insomma con varie problematiche, ma che riusciamo sempre ad affrontare a testa alta. Sicuramente il benessere dei cani è visto assolutamente come cosa prioritaria, primaria, indiscutibile, quindi cerchiamo di fare il possibile per poterli gestire il meglio che possiamo. Ovviamente siamo un'associazione che si auto mantiene tramite le donazioni e quindi di questo siamo assolutamente riconoscenti a tutti i nostri soci, amici, e per fortuna insomma ci sono tante persone che ci vogliono bene e danno quello che possono ovviamente, però insomma riusciamo ad andare avanti discretamente, sebbene comunque sempre problemi ci sono, ma andiamo avanti. E i cani che sono oggi ospiti non sono tantissimi ed è stata una nostra scelta negli anni quella di accogliere meno situazioni, ma soprattutto per aumentare il benessere di ognuno di loro. Ognuno ha diciamo delle esigenze diverse dagli altri e quindi insomma devono essere tutti curati e gestiti nel, insomma, al massimo, e soprattutto non sono di cani di serie B, nel senso che i canili sono sempre stati considerati come posti relitto e noi ci sforziamo di farlo essere comunque un posto bello, magico, ed è vero, perché comunque chi ci viene a trovare riconosce il nostro sforzo e insomma di far apparire comunque un posto di serie A, perché realmente lì non ci sono soltanto cani, ma ci sono diciamo esseri viventi insieme a noi, quindi uniti riusciamo realmente ad essere un unico cuore, e quindi cerchiamo di fare quel che possiamo. Sappiamo che non possiamo aiutare tutti i cani, questo è assolutamente scontato, e ci diamo da fare per far star bene chi è ospite, soprattutto le adozioni, che è la parte più importante, quella che chiude un po' tutto il cerchio del nostro lavoro, che è grandissimo e che non tutti conoscono, e cerchiamo di farlo il meglio possibile. Ovviamente abbiamo l'ausilio di professionisti che ci aiutano anche insomma in tutta questa fase. Ovviamente è composta di vari anelli e di conseguenza ogni anello è fondamentale per andare avanti. Ecco, detta proprio in 3 secondi, potrei dilungarmi ore, però insomma è una grossa passione. Assolutamente sì. Si fa volontariato solo per passione, non per il proprio ego, quella è un'altra categoria e a noi non ci appartiene. Certamente, assolutamente. Allora, intanto Barbara, tu vuoi dire qualcosa in merito a Rifugio? E diciamo che abbiamo anche raccontato un po' come Rifugio è cambiato nel tempo, insomma, quindi tu ci vuoi dire qualcosa in merito a questo? Io mi sono approcciata al Rifugio circa 12 anni fa da spettatrice, perché ecco, andavo alle feste, perché noi organizziamo sempre due feste, una di Natale e una di primavera, anzi il prossimo 29 maggio ne faremo una al Rifugio di domenica, chi vorrà venire potrà insomma seguirci sui social e ci farà piacere, perché sono delle occasioni bellissime in cui comunque il volontariato si unisce e c'è un'atmosfera particolare, perché il Rifugio chiunque lo frequenta e chiunque lo potrà verificare ha veramente una sorta di magia. Questo è comune a tutti, è un posto veramente dove si respira il bello, il bene, la forza, la volontà, quindi è un posto che se inizi a frequentare poi non lo lasci più, tant'è che io ho iniziato, ripeto, da spettatrice, oggi insomma faccio parte del direttivo, mi occupo della parte un po' burocratica e legale diciamo dell'associazione. L'associazione è una realtà nel suo piccolo che insomma vorrebbe anche replicare o comunque dare l'esempio per la gestione degli animali, che insomma sappiamo tutti che negli altri canili insomma sono ammassati, sono tantissimi, hanno pochissimi operatori per ogni animale. Invece da noi, ecco, come diceva appunto Valentina, si è scelto gestire un numero inferiore di cani per dare la possibilità che vengano seguiti meglio e che comunque possano anche essere date loro delle chance di adozione. Quindi come diceva Valentina, appunto, un volontariato bello, fatto bene, organizzato e con un intento comune, e insomma invito tutti ad avvicinarci come realtà, insomma, che tra le altre cose siamo, credo, l'unica, no, posso dirlo, l'unica del municipio. Sì, sono sicuramente. Sì, sicuramente sì. Certo. E poi, ecco, ripeto, a mio modo di vedere, anche se ribadisco che mi occupo, diciamo, di altro, dell'associazione, so che insomma anche a livello di funzionamento e di gestione per tutto quanto riguarda gli animali, insomma, siamo, posso dirlo, un'eccellenza, ed è stato detto anche da varie istituzioni, da anche la presidente l'EMPA ci è venuto a visitare una volta, ha detto: ma io vedo tutti questi occhi che sono felici di questi cani. Per chi ha fatti con dei felici, per questo cerchiamo di insomma dare il meglio per loro e con l'aiuto di tutti quanti, insomma, questo è quello che voglio dire. Perfetto. Fede, tu ci vuoi raccontare qualcosa di come sei approdata a Rifugio e di come l'hai visto crescere in qualche modo? Certo. Conosco Rifugio ormai da, diciamo, quasi 20 anni, ed ho visto cambiare molto e sono anche orgogliosa di aver partecipato ad alcuni di questi cambiamenti, perché mi appassionava, mi sono avvicinata al Rifugio perché ero già una professionista, sebbene piuttosto giovane, e quindi come volontaria, come istruttrice volontaria, come educatrice volontaria, questa figura non c'era in canile. Era già un canile, era un piccolo rifugio, e dunque c'erano comunque un numero di animali che rendeva l'ambiente non stressante. Ci sono dei canili che sono davvero scioccanti da conoscere, no? In situazioni. Quello che ho conosciuto io, sebbene fosse 20 anni fa, era comunque un luogo bello, e davvero dove arrivavi e pensavi: qui possiamo fare la differenza. E l'ho visto cambiare, migliorare le proprie strutture, migliorare la qualità delle persone, la preparazione proprio per migliorare la qualità della vita degli animali. E questo è stato un bellissimo percorso di cui veramente, cioè, vado proprio fiera di averne fatto parte. Ad oggi, effettivamente, come dicevano prima di me Valentina e Barbara, persino il volontariato è di qualità da noi, quindi anche chi non fa questo per professione e dedica il suo tempo libero al nostro rifugio, ai nostri animali, all'associazione, insomma, è comunque guidato, perché l'idea è quella di aiutare gli animali di cui ci occupiamo, che naturalmente non possiamo aiutare tutti i cani, però quelli di cui ci occupiamo cerchiamo di aiutarli, ma diventa un luogo anche, non so come posso dire, ci piace pensare sia anche un presidio di cultura cinofila. Quindi non è solo l'aiuto di quell'animale in quella situazione, in quel momento, che è sacrosanto, intendiamoci, ma è anche proprio, se è possibile, dare il nostro contributo, che sia grande o piccolo, comunque importante, al miglioramento proprio di una cultura, perché alcune problematiche che causano gli abbandoni, i maltrattamenti, eccetera, possano essere colpite alle radici, ecco. Poi noi comunque ci occupiamo dei nostri canetti, al di là degli obiettivi più, no, più ampi, più, anche più difficili, però comunque questo rimane un obiettivo. Questa credo che sia la caratteristica che fa, come diceva Barbara, un luogo di eccellenza. L'eccellenza è anche questa, è proprio la mentalità che abbiamo. Vogliamo un po' cambiare questo mondo, poi insomma conosciamo le difficoltà e i limiti, però bisogna anche sognare un po' in grande, no? Provarci, no, è sempre, esatto, un punto di partenza. in questo ho visto tanti cambiamenti, miglioramenti, insomma, da una buonissima partenza, e possiamo ancora migliorare, lo stiamo facendo. Assolutamente sì, confermo. Allora, intanto, prima poi di passare magari a parlare un po' meglio di quanto è importante formare il volontario e in che modo, mi concentrerei su quanto è importante costruire un ambiente come avete fatto voi, che tuteli il cane che è ospite nel rifugio, e per tutelarlo per quanto possibile da fonti di stress. E come ci siete riusciti a, diciamo così, a mettere in pratica questa, diciamo così, questa forma di tutela da un certo punto di vista? Nel senso, la gestione ad oggi di quello che è il benessere del cane. Sì, assolutamente sì. La sua gestione. Allora, fondamentale è una parola chiave che è quella del rispetto, e quindi soprattutto conoscere per capire meglio chi stiamo ospitando. E per questo noi cerchiamo sempre di andare oltre a quello che è il benessere basic di un cane, a prescindere che comunque all'interno di un rifugio un cane ha determinate situazioni, non le può vivere appieno come se vivesse in casa. Cerchiamo di dare una parvenza di una casa, sebbene non saremo noi i suoi proprietari tra virgolette, perché è una parola che utilizziamo poco, però per far capire, quindi cercare di renderli il meno stressati possibile. Per questo motivo anche il numero dei cani non è elevato, e soprattutto la qualità della vita viene assolutamente, ci proviamo a dargli il meglio, quindi facendo comunque molte uscite durante la giornata, comunque escono tutti i giorni, abbiamo varie aree di sgambo, poi ci sono cani che comunque hanno delle necessità diverse rispetto agli altri, quindi alcuni possono andare insieme ad altri cani durante l'orario, poi ovviamente Federica, che è il nostro istruttore di riferimento, comunque è lei che gestisce la parte della socializzazione, che è fondamentale per ogni singolo cane, senza dimenticare la parte fondamentale a livello sia veterinario che anche la nutrizione stessa, perché comunque ha la sua importanza. Quindi è come se fossero tutti i cani nostri, ma hanno tanti mamma e papà e vivono insieme ad altri compagni di, tra virgolette, di disavventura, ma in qualche modo cerchiamo di fargliela passare il meglio possibile. Quindi questo è lo sforzo maggiore. Quindi non sono numerosi dentro ogni singolo box, escono tutti i giorni e fanno, ogni cane ha un percorso, un training che viene individuato in base alle esigenze. Sono tantissime le cose che, insomma, che si possono fare con i cani, senza togliere comunque che c'è la parte negativa, perché comunque vivono in box, sebbene possiamo farli carini come ti pare, però realmente vivono in box, e cerchiamo di alcuni momenti della giornata devono godere di attenzioni, quindi è questo un po' quello che cerchiamo di fare. Ok, perfetto. Poi c'è anche il ruolo di Federica, insomma, che incide molto, no? Anche la socializzazione è importante. Eh sì, fondamentale per ogni singolo cane, e poi per chi più e per chi meno, questa è la parte importante. C'è una preparazione a quella che sarà la loro vita in futuro, e ci si augura che lo sia per tutti, ogni singolo cane deve avere una chance. È ovvio che abbiamo anche cani anziani e sappiamo che probabilmente, ogni cane ha la sua speranza di poter avere una propria casa, e di conseguenza insieme a sia gli operatori e il coordinamento dell'educatore ognuno fa delle attività che sono assolutamente corrispondenti alla tipologia del cane. Ogni cane ha dei parametri ben precisi, quindi questo poi è tutto un lavoro che viene fatto nel quotidiano. Io, vabbè, mi soffermerei su un aspetto importante che magari mi coinvolge un po' più da vicino. Quanto è importante la formazione del volontario all'interno del rifugio, e magari ci metto anche un piccolo, diciamo così, una piccola parentesi mia, anche se il ruolo di intervistatrice in realtà non me lo richiede, però lo vorrei raccontare. Io non ho mai fatto volontariato cinofilo in vita mia, e quindi Code Felice è stata la prima e unica realtà dove sono arrivata e mi sono fermata. E la prima volta che sono arrivata a Code Felici, che ho fatto il corso dei volontari, di cui poi magari accenneremo per capire insieme come vengono formati i volontari, e c'era un cane che praticamente non entrava nel box e non c'era verso di farlo entrare nel box, e la cosa che mi ha colpito è stata, magari io ingenuamente ho chiesto, ma non si può forzare, prenderlo per il collo, non lo so, qualsiasi cosa, insomma, e chiude sto box. Ovviamente tremenda come domanda, mi rendo conto, però la risposta che mi è stata data è stata importantissima, perché mi è stato detto: qualsiasi cosa noi facciamo adesso per, diciamo così, fregarla, tra virgolette, per farla entrare nel box, potrebbe rovinare giorni e settimane di lavoro per conquistare la fiducia che abbiamo fatto per conquistare la fiducia di questo cane. E quindi per me è stato importante, e penso che per tutti i volontari che sono arrivati a Code Felici è molto importante la formazione, ma quel tipo di formazione che abbiamo ricevuto è fondamentale, insomma, quindi ci tenevo, insomma, a farvi i complimenti. La formazione dei volontari. Non ho capito. La formazione dei volontari, scusa, non sentivo bene io. Sì, la formazione dei volontari è importantissima, e quindi cioè, ci tenevo a raccontare, insomma, questo aneddoto, ma soprattutto ci tenevo a raccontare come funziona, quindi come vengono formati i volontari, e quanto è importante poi che imparino a coordinarsi con gli operatori, prima di tutto, che sono la figura di riferimento dei volontari, e non soltanto dei volontari, anche dei cani stessi, eccetera eccetera. E quindi niente, non so se ci vuoi parlare un po' meglio di questa formazione, Valentino, se ci volete parlare voi tutte e tre. Sì, poi magari io, diciamo, do l'inizio, e poi dopo ovviamente ognuno di noi pure ha visto, anche quando è entrato. Vabbè, io sono entrata che veramente eravamo quattro persone, quindi lì non eri involontario, lì eri un factotum, e che comunque intervenivi, insomma, senza nessun tipo di anche competenza. Quindi alla luce di questo, realmente col tempo abbiamo fatto anche noi un training nel capire quali sono i bisogni del cane, come bisogna comportarsi con i cani che non sono i nostri cani, ma sono comunque insomma, vivono anche delle situazioni di grosso stress. E poiché l'amore, come diciamo noi, vero? L'amore non basta, no. Noi diciamo che fondamentalmente combattiamo parecchio, tra virgolette, chiunque invece si permetta di intervenire con amore nei confronti dei cani senza conoscere realmente niente sui cani. Quindi chi si avvicina a fare volontariato può essere la chiunque, e però in modo automatico, diciamo, in qualche modo si discostano qualora ci fosse una voglia di venire a fare volontariato, perché ho voglia di stare con i cagnolini e quindi voglio portarli a spasso perché mi fa stare bene. Quindi quello è una modalità di volontariato che a noi non ci appartiene più, perché era del passato e si deve andare avanti. A noi ci piacciono le persone che realmente sanno stare con i cani, ma non perché debba essere un educatore o comunque un addetto al settore, ma deve capire semplicemente che sempre la parola rispetto deve far parte di tutto il circolo che fa parte del rifugio, e di conseguenza vengono formati volontari dando anche delle coordinate che magari sono le nostre e non sono quelle di altri canili rifugi, ma per noi sono importanti degli standard. Il bello è che comunque tanti iniziano con molta euforia e poi mano a mano si perdono perché poi non si sentono sempre tra virgolette all'altezza o perché avevano altre aspettative. Quindi noi non possiamo permetterci di fare il volontariato al volontario, quindi si viene perché ci si sta stare all'interno del rifugio e non perché ci si vuole passare il tempo. Quindi ecco, la formazione è anche questa, dare delle indicazioni ben precise, sempre coordinate, perché ognuno di noi ha anche un ruolo all'interno e chi può dare delle indicazioni le deve dare e deve essere seguito, perché altrimenti non è un volontario che ha una funzione, non ha finalità. E quindi ci battiamo in questo. Ovvio che c'è sempre una formazione per dare queste indicazioni, i volontari junior vengono seguiti dai volontari senior e mano a mano si integrano, come è successo con te, nelle varie attività. Poi ognuno trova anche il proprio spazio, perché ci sono volontari che si dedicano ad alcune attività e altri ad altre. Non, insomma, si chiama volontariato proprio per questo motivo. Non c'è una aspettativa, un ordine, obbligatorietà, ecco. Quindi il proprio tempo ha un valore e quel valore deve avere, insomma, deve essere prezioso. Quando si esce dal rifugio, ognuno deve uscire anche con uno spirito di aver fatto realmente qualcosa di utile, non per proprio conto, ma realmente per i cani e per l'associazione. Questo proprio in sintesi. Poi ci sono altri generi di volontariato e di lì possiamo parlarne anche per un paio d'ore. Magari in un'altra puntata. Direi. Ben venga, insomma. Se volete aggiungere qualche altra cosa. Sì, assolutamente sì. Se volete. Ma io penso che tu abbia spiegato molto bene qual è l'approccio che accode, qual è l'obiettivo, insomma. Quindi non aggiungo, ma vi racconto questa cosa che forse così scherzosamente dà l'idea. C'è stato un momento in cui avevamo diversi volontari nuovi, abbiamo istituito una piccola multa di 50 centesimi che finiva in un salvadanaio che comunque era sempre di code, ai volontari che quando usciva un cane o incontravano uno dei nostri cani durante la giornata lo apostrofavano con l'aggettivo poverino. Noi abbiamo messo una multa per la parola poverino e io dicevo no ragazzi, no poverino, noi dobbiamo guardare questi cani proprio dicendo sei fighissimo, ce la puoi fare, andrai meglio, noi ti aiutiamo e ti troviamo una casa, quindi se hai difficoltà le supererai, no poverino, perché magari quello super timido che non ti si avvicina ovviamente suscita un po' di tenerezza, vedi le sue difficoltà, quello come altri atteggiamenti. Però abbiamo bandito la parola poverino perché il nostro atteggiamento è proprio, non siamo lì con un atteggiamento pietistico, è un volontariato attivo, propositivo, e poi appunto se siamo tutti in armonia riusciamo a portare a casa gli obiettivi, non sempre, non nello stesso modo, insomma, però tante cose belle, tante cose buone, quindi no poverino, da noi si pagano 50 centesimi per chi chiama cani. Anche perché noi non abbiamo cani poverini, ma abbiamo cani fighissimi. Esatto. Quindi esatto. Quindi anzi, poi magari vi daremo tutte le coordinate dove potete vedere i nostri super cani, insomma, quindi. Allora, veniamo alle adozioni, diciamo così, una delle cose più importanti, delle attività più importanti che vengono svolte da alcuni volontari e dal direttivo. Come vengono gestite e quanto è importante il confronto conoscitivo con le famiglie? E poi ovviamente abbiamo già detto perché scegliere un cane da un rifugio è senz'altro un plus per l'adottante, per la famiglia che poi lo porta a casa. Allora, poi continuate voi. Sicuramente l'adozione di un cane è qualcosa di importante, è un inserimento in famiglia e quindi l'importanza, non dico in modo esagerato, però è realmente un inserimento in una famiglia di un altro elemento importante, quindi va data importanza a tutto il ciclo che subisce, diciamo, l'adozione. Quindi comunque noi cerchiamo di capire realmente quali sono le, qual è la situazione della famiglia, e viene messa subito in moto una, diciamo, tutta una macchina che sembra chissà che cosa dobbiamo fare, però viene messa in luce una parola sola anche qui parlo a, che si chiama consapevolezza di quello che si sta facendo, perché l'adozione è veramente è difficile da spiegare quando non si ha nemmeno un cane o non si ha mai avuto un cane, quindi si prendono i rapporti con persone che non si conoscono e che non è facile da capire, e entrano, e comunque noi già sappiamo realmente chi presentare in base alla situazione familiare che ha la famiglia. E poi dopo entra tutta una serie di incontri che si fanno direttamente con Federica, una volta che abbiamo capito se realmente la famiglia è adeguata, la famiglia, la coppia, il single, chiunque sia, e poi si fanno una serie di incontri con Federica fino al momento in cui viene portato a casa. È molto, richiede molte energie per fare questo. Non nego che comunque a volte ci sono stati, diciamo, può accadere che il cane rientri in canile perché abbiamo fatto una valutazione sbagliata, però questo non fa altro che aumentare le nostre competenze, e in base proprio a quel cane vengono fatte una serie di prove che poi magari racconterà meglio Fede, proprio per la sua adottabilità. Questo è il percorso che facciamo a monte per ogni cane, quindi renderli adottabili, e si dice in un modo semplicissimo che è aumentare il loro indice di adottabilità, perché non è un punteggio, ma è realmente quello al quale si auspica per ogni singolo cane, la collocazione reale della casa ideale che potrà avere un cane X piuttosto che Y, e questo, insomma, è un grande lavoro. Questo è detto proprio in insomma quattro parole, non tre, quattro. Ok, chi vuole intervenire sempre su questo argomento delle adozioni? Beh, forse l'importanza, magari un accenno solo, io lo faccio, sì. Sull'importanza appunto anche del preaffido, no? Grazie. Cioè ci vorrebbe anche una formazione per fare i preaffidi, perché comunque sono delle visite che si fanno alle famiglie prima dell'adozione, quando uno esprime, diciamo, la volontà di voler adottare un cane, così come anche un gatto, si fa, insomma, questo preaffido, che è in sostanza una visita, un colloquio che si fa tra volontari e la famiglia per vedere l'ambiente. Infatti è sempre auspicabile che ci siano tutti i membri della famiglia per capire se la scelta è stata adottata in comune o se è stata comunque imposta o se è un capriccio, magari, no, dei figli. Cioè, come diceva appunto la parola chiave, consapevolezza, perché l'adozione comporta l'aumento della famiglia, no? Quindi entra un nuovo membro che deve essere trattato come tale, non come il giocattolo del figlio o comunque il cane da guardia o quello che va messo in giardino, eccetera. Quindi ci vuole consapevolezza, e insomma anche il volontario deve essere bravo per capire la psicologia e l'ambiente e le dinamiche familiari che hanno condotto anche a questa scelta, se è una scelta consapevole appunto e fondata, insomma, su una volontà di voler, oltre che far del bene, insomma, anche di assumersi tutte le responsabilità. Questo è importante, e anche il volontario deve avere, insomma, dopo anni di esperienza, impari a capire subito. E, cioè, questo è il primo filtro, no, che viene fatto prima di poi tutto il lavoro che viene fatto successivamente con l'educatore, quindi la prova casa, la prova strada, marciapiede, bar, insomma, c'è tanto prima di darlo in adozione. C'è tanto lavoro da fare, cosa che purtroppo nei canili di grandi dimensioni, in cui gli operatori sono pochissimi, volontari anche, non si fa, cioè, perché non c'è modo, non c'è tempo. Quindi dovrebbe essere quasi una prassi da adottare a livello istituzionale, quella del controllo, anche perché a questo punto potrebbero esserci molti meno abbandoni, no? Perché insomma, se poi l'adozione è fatta in un certo modo, si diminuisce anche l'indice di abbandono. Certo. Sicuramente. Poi certamente. Non meno importante è la valutazione, e abbiamo conosciuto negli anni tante persone che hanno adottato senza aver fatto nessun tipo di incontro, senza conoscere assolutamente il cane, e quindi su questo realmente potremmo fare tranquillamente una puntata solo per questo, e sì, si chiamano insomma i cagnari, nel senso noi li chiamiamo così perché comunque sono macchine da guerra, ovviamente per tanto amore e poi dietro per tante altre motivazioni, quindi ci sono i viaggi della speranza, le mega staffette, esatto, che di solito dal sud al nord, questi mega, e poi arrivano dei cani che nessuno ha mai visto, cioè l'adottante ha visto solo in foto. Ma anche il cane non ha mai visto loro, e magari... Certo. Dato poi dopo la staffetta, quindi dopo un viaggio traumatico di ore, tra le altre cose. Questo è un discorso... L'indice di fuga è altissimo, no? Sì. Esatto. È un discorso molto, molto, molto, molto delicato, ma è anche tanto delicato perché va a interferire su quelli che sono meccanismi dei canili, che non è che quelli del sud hanno più problemi di quelli del nord, perché non è così, e insomma, tante fughe di tanti cani accalappiati, liberi e bla bla bla, su questo potremmo parlarne tantissimo, ma noi no. Noi non mandiamo cani in staffetta così, senza conoscere le persone, piuttosto ci andiamo noi e soprattutto cerchiamo di fare adozioni sul territorio, perché nel Lazio, a Roma, ci sono tanti cani che hanno bisogno di famiglie, quindi non perché spostarli, quindi la valutazione è importante e soprattutto i cani e le persone si devono conoscere, si devono incontrare solo dopo, se tutto il match ha avuto successo, ok, si procede. A tanti spaventa, ma a chi spaventa vuol dire che non dà una importanza a quello che si sta facendo. Questo è il nostro criterio, no Fede, ragazzi, è così. Certo. Sì, certo. Assolutamente. Fede, tu ci vuoi... Sì, noi negli anni abbiamo sostanzialmente costruito un protocollo per proteggere i cani, ma anche le famiglie, perché alla fine deve essere un po' un'agenzia matrimoniale, cioè dobbiamo vedere intanto la compatibilità sulla carta, perché un'adozione può andare male con una famiglia fantastica, un cane fantastico, se però non si trovano l'adozione va male, se io prendo un cane super allegro, pieno di energie e si innamora di questo cane la vecchietta mite che sta sempre a casa, sarà un matrimonio infelice, e non è sbagliata la vecchietta mite nel cane, però forse quel cane ha bisogno di qualcuno un po' più dinamico e magari la signora di un cane invece un po' più sedentario, magari un po' più avanti d'età o comunque a sua volta mite nei ritmi. Questo è il punto, per cui io incontro le famiglie e vengono seguite da noi, io le incontro dopo una prima fase di cui si occupano appunto, noi siamo diverse figure e ci coordiniamo e collaboriamo, e quindi c'è il preaffido di cui parlava Barbara, e quindi ci sono i colloqui appunto conoscitivi per capire anche verso quale cane orientarli, se abbiamo qualche candidato adatto ai racconti che ci stanno facendo, all'ambiente in cui ci stanno dicendo che vivono e così via. Io li incontro dopo che questa prima fase molto importante è già passata, quindi quando, diciamo, almeno sulla carta sappiamo un po', quando insomma possiamo parlare di un fidanzamento possibile, e presento a loro i nostri cani, noi li conosciamo, noi possiamo raccontare un sacco di cose sui nostri cani, perché il lavoro che viene fatto su di loro per aumentare quello che giustamente Valentina ha chiamato l'indice di adottabilità è prima, non è come dire contestuale poi ad un'adozione, per cui io so se quel cane conosce la città, sale in macchina, stiamo lavorando su quello, sulla socializzazione, su tutta una serie di cose. Quando la famiglia arriva abbiamo la possibilità di parlare con loro e di aiutarli ad integrare l'animale nei loro ritmi, ma perché la scelta è stata fatta con un criterio, con consapevolezza, cercando di abbassare il più possibile i margini d'errore, che poi ovviamente esistono, è chiaro, però più lavoriamo in questo modo e più riduciamo gli errori. Infatti noi abbiamo pochissimi rientri rispetto alle uscite, poi naturalmente capitano delle valutazioni errate o delle situazioni impreviste, delle risposte impreviste, però indubbiamente si cammina abbastanza bene. Il nostro obiettivo è farli adottare, ma è la qualità dell'adozione, non il numero di adozioni. Poi naturalmente vogliamo che il numero sia alto, è ovvio, però non abbiamo fretta non è passi la domenica e te ne vai con un cane, perché poi se ce lo riporti il mercoledì non abbiamo fatto nulla di buono, né per la famiglia né per i nostri cani. Noi dobbiamo difendere anche loro da brutte esperienze comunque, o da situazioni che non le migliorano, ecco. Se addirittura possono peggiorarne, ma di sicuro non le migliorano. E questo è il nostro dovere, è questo, è quanto, insomma, no? Assolutamente. Ok, allora, proprio in funzione intanto della possibilità di far conoscere il rifugio, ma non soltanto, anche per, diciamo così, per rendere la permanenza o comunque la vita dei cani migliore, diciamo che sono molto importanti anche le attività che coinvolgono la società, diciamo così, le zone limitrofe o comunque le persone che vi appoggiano. Quindi abbiamo detto feste, iniziative, tra cui quella che ci sarà il 29 maggio. Ce ne puoi parlare tu, Barbara? Pronto? Vabbè, allora per... No, scusatemi, okay. Mi era andata via un attimo la linea, mi okay. Puoi ripetere? Scusami, Michela. La festa del 29. Sì, ci vuoi parlare intanto della festa del 29 maggio? Assolutamente. Allora, noi in quanto associazione o organizzazione di volontariato, meglio, abbiamo la possibilità di organizzare due eventi l'anno per quanto riguarda la raccolta fondi, e quindi organizziamo questa festa di primavera e poi quella di Natale. E quest'anno quella di primavera finalmente, dopo tanto tempo, insomma, riusciamo a fare, perché l'anno scorso l'abbiamo fatta ma con tutte le normative, insomma, Covid eccetera, quindi era molto più ristretta. Quindi quest'anno speriamo di nel sole e soprattutto nella partecipazione di tanti. E è un mercatino dove vendiamo del artigianato fatto dai nostri volontari appunto attraverso per la raccolta di fondi. Abbiamo dei gadget che riguardano il rifugio, i calendari, la sottoscrizione di tesseramento, donazioni, la riffa, il buffet offerto da noi. È una festa bellissima, ecco, quindi anche per i bambini, perché è un posto, c'è la possibilità attraverso appunto gli operatori che accompagnano tutti i partecipanti di fare un giro all'interno del rifugio, ovviamente sempre limitato, perché comunque è fonte di grande stress per gli animali, questo lo dobbiamo dire, quindi ne facciamo poche anche per questo motivo, perché comunque sono sottoposti, insomma, a degli stimoli che solitamente non hanno, quindi siamo molto attenti anche in questo. Però sicuramente è insomma, un momento di festa in cui ci facciamo conoscere, in cui c'è anche la possibilità di, insomma, di fare delle adozioni, no? Perché si prendono dei contatti che poi si seguono e si coltivano. Quindi si terrà il 29 maggio. Per quanto riguarda, insomma, le indicazioni, potete contattarci su tutti i nostri social, siamo su Instagram, su Facebook, la mail, il sito, quindi insomma i canali per comunicare con noi ce ne sono in quantità. E quindi niente, insomma, noi vi aspettiamo ed è un evento, insomma, partecipativo anche per il municipio stesso, no? Per la cittadinanza, perché comunque è un punto di incontro per fare una cosa diversa che insomma diffonde anche l'amore, non amore, come dice Valentina, ma una consapevolezza, insomma, del rispetto del mondo animale e l'insegnamento, insomma, anche ai bambini, no? Di una sensibilità civile che forse ora che cominciamo a tirare fuori. Ecco, quindi nel nostro piccolo vogliamo fare anche questo, il rifugio è anche questo. Assolutamente, assolutamente. Poi ci sono anche iniziative, magari non so se Valentina o Federica ce le vogliono raccontare, a volte li portiamo anche fuori questi cani, no? Quando ci riusciamo. Ci sono stati diciamo così, degli eventi molto belli che li hanno visti i protagonisti, come passeggiate, sì, eccetera. Sì, quelle al centro di Roma anche, sì, sì. Abbiamo fatto veramente... brava, diciamo delle giornate dedicate, quindi in base anche, certo, durante la pandemia un po' siamo state ferme, abbiamo organizzato di recente un trekking proprio per permettere a tutti i nostri conoscenti, amici, eccetera, e anche per noi con i cani del rifugio, noi volontari, per fare un trekking, una passeggiata al bosco di Manziana, adesso questo è l'ultimo che abbiamo fatto, poi ci sono state altre situazioni di i nonni al mare, quindi abbiamo portato i cani anziani al mare, no, non tantissimi cani, però insomma un paio insieme a noi per far una, per passare una giornata veramente speciale dedicata a loro, piuttosto che a Villada, nei parchi, oppure anche semplicemente in altri centri che possono ospitare cani, quindi in ambienti comunque gradevoli per loro, anche per fare anche altre attività, cambiare odori, questo lo facciamo spesso anche all'interno del nostro rifugio perché siamo in una zona abbastanza campestre, quindi è facile riuscire a portarli fuori in passeggiata, oltre che nel nostro rifugio, nei nostri campi che offrono possibilità di sgambo in libertà, sgambo inteso come momento ludico per ogni singolo cane in libertà, oppure semplicemente una passeggiata. Vivere sempre nello stesso luogo non piace a nessuno, tantomeno ai cani. Ecco, questo è un altro aspetto che ovviamente nelle adozioni viene preso in considerazione. Insomma, questo per ritornare un secondo all'adozione, semplicemente perché i cani devono godere anche di, insomma, di tanti aspetti, quindi anche uscite, soprattutto per chi ha solo giardino. Questa è una parentesi che mi è venuta in mente mentre parlavo. Chi vive, chi ha un cane soltanto e ha la fortuna, è un plus aggiuntivo di avere la fortuna di avere un giardino, non per questo il cane deve stare solo in giardino. È chiusa parentesi, era un inciso. Importante, però è un avvertimento. Okay. Una minaccia. Allora, ci vediamo sicuramente il 29 maggio. E da che ora abbiamo detto? Non mi ricordo. Ma noi iniziamo a preparare sul presto, però io direi verso dalle 10, 10 e mezza, okay, no? Ok, fino a quella allora, fino a pomeriggio, poi insomma finché venite noi ci siamo. Okay. La festa sarà organizzata con un buffet magnifico come ogni anno, ricco, molto ricco. Ci stiamo organizzando con una serie di gadget innovativi, soprattutto le sottoscrizioni per essere socio del rifugio, che comporta anche un gemellaggio tra virgolette con alcune convenzioni, con alcuni negozi per avere degli sconti per i nostri soci, le adozioni a distanza che sono un importante avvicinamento ai cani senza averlo realmente in casa, e di questo poi insomma ha una funzionalità ben precisa, e poi abbiamo delle novità quest'anno e quindi dovrete partecipare, insomma ci farebbe piacere che fosse in tanti. Ma ci saranno sicuramente tantissime persone come sempre, perché poi alla fine diciamo che è un evento sempre sempre pieno di belle vibrazioni, insomma, quindi insomma sicuramente quest'anno, grazie alla fine della pandemia, fine tra virgolette, potremo magari festeggiare ancora meglio. E ragazzi, che dire, io vi ringrazio veramente. Grazie, e grazie a te. Sono veramente grazie a te, Michela. Molto felice di avervi potuto ospitare. Sono sicura che sarà questo è solo l'inizio. Me lo auguro moltissimo. E, insomma, e quindi spero di avervi presto in questi microfoni. Abbiamo sdoganato, diciamo così, il podcast, e soprattutto abbiamo fatto quello che desideravo tantissimo, ovvero presentare a tutti il rifugio Code Felici. E poi troverete sulle note tutti i riferimenti per poterci contattare, per poter arrivare a noi, e niente, io vi ringrazio e vi auguro buona serata. Grazie Michela. Michela, buonasera a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.